abbiamo sulla famiglia di Giulia, le saremo accanto anche quando sarà. Celebreranno i funerali in forma strettamente privata come chiesto. Secu, vamos a ver quién copia Puerto Rico, buenos días. Bueno, bueno, adelante, ¿quién está copiando? Esto es Puerto Rico, estación W por acá, saludos, adelante. ¿Dónde te encuentras, mi amigo? ¿Dónde te encuentras? Saludos, buen amigo ahí. Un poco difícil la copia ahí, pero saludos, mi amigo de allá, de Europa o Italia. Esto es Puerto Rico, este es W por acá que saluda, oyen. Hola, hola, hola, hola. Vamos a ver quién va escuchando Puerto Rico. Buenos días. Hola, hola, hola. Hola, vamos a ver quién copia Puerto Rico. Buenos días, buenos días. Adelante, ¿quién llama Puerto Rico? Buenos días, adelante. Esto es la isla de Puerto Rico. Buenos días. Buongiorno, amigo. Buongiorno, buongiorno. Hola, hola. Crocro, crocro. Ma non avevi ottimizzato con l'altro microfono. Cosa, Luca? Non ho capito, della televisione non mi tira mai delle mie musiche. Infatti, dico che non avevi messo l'altro microfono per evitare questo oro, che si sente più la televisione di te. Ce l'ho l'altro microfono, ma allora non metto il villaggio buio. Si sente più la televisione dalla tua voce. Ti agita e fa un po' guiacinando. Chiara, chiara. Papari. Papari. Chi è? Chi è? Che fischia? Gianni. Ma dove? Andremo beh, andremo. A te immagini questo Gianni. Entra, chiama e la buona risponde. Bebe. Allora, alla comuro. Hola, hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. Hola, attenzione, canale 10, cambio. Hola. Giulio. Hola, attenzione, canale 10, cambio. Avanti. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, cambio. Hola, attenzione, canale 10, cambio. Attenzione, canale 10, se ascoltate l'isola della Sardegna, cambio. CQ10, hola, attenzione, canale 10, se ascoltate l'isola sarda, cambio. Attento, attento, mio hermano de Vasco, sia l'isola della Sardegna, adelante, ve lo comprendido. Hola, hola, attenzione, canale 10, cambio. Hola, hola, hola, prova. Avanti, chi è? Non è Oscagliola. Attenzione sul canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata, cambio. A voi dice che non veni su. Tu le già vengo. E chissà che non sia nulla, che già ti bassa. Che ce l'hai già? Con quello che sta fischiando. La cagliura. Entrava a fischiare, da voi non entra, e dopo si lamentano che non entra nessuno la sera, che chiamano, che fischiano e poi non entra. Che ci vuoi fare? E beh, di minimizzare i poni. Io quando andavo alla pelle pure, facciamo il quadretti, non sopra la melanzana, ci mettevo l'olio santo, che sarebbe quello col peperoncino, no? Quello fatto macerare col peperoncino, e poi prendevo le aglio e non vinera, poi dai bello Maria. Vabbè, no, io vabbè, il peperoncino glielo metto sopra, così, ma proprio una toccatina mi sembra palluma. Olio, c'è anche quello che dici tu, l'olio col peperoncino, ma quello lo uso per quando faccio la matriciana, capito, quei sughi così. E no, io già lo usavo anche per le melanzane. Poi una volta ho fatto una pescata di orate e l'ho conservata, ne ho fatto due, tre pescate, la terza pescata siamo andati, le abbiamo arrostite, le abbiamo fatte tutte al sale, ma non c'è che anche la Rivoli, arrosto con scimmi. Ci credo, ma lì c'era un passaggio di orattine, lì dove c'è il bar della torretta, c'è un passaggio di orattine ogni tanto, chissà da dove escono, ma lì della stessa prestatura. Quella da 500 grammi. E c'era un periodo che tu andavi dalle 7 alle 8, dopo non mangiavano più, dalle 7 alle 8 ne prendevi anche 10, 12. E lì, proprio lì. Non so se sono questione di qualche allevamento che sono scappate, io penso che sia roba di allevamento, perché la pezzatura, come dici tu, è tutta uguale. Sì, sì, sì, era capitato una volta, tornando da Fintino, e ci siamo fermati lì al bar della torretta, e siccome mi erano rimaste qualche verme così, no? Ho detto, beh, adesso faccio un lancio. Ah, una dietro l'altra, e poi hanno giocato 4-5. Tutti lanciavi nello stesso punto, sempre nello stesso punto, manco il tempo di appoggiare la canna che era già a niente. E anche io c'ho un punto lì alla torretta lì dove dici tu, dove c'è il presidio militare, c'ho un punto unico, perché poi tutto una più rocca, un rischio, c'è un punto dove io ho beccato di tutto, mormoroni. C'è sì la roccia, però è piatta, quindi ci scorre bene il piombo, non lo perdi. C'è sabbia e roccia, ho preso mormoroni di quelli grandi, orate di cui una di 3 kg e passa, e le altre tutte pezzature sugli 800, 900 grammi, 500. E poi ho preso anche razzini, ma belle però. Ma la posso prendere le reti, Uia. Stanno mettendo le reti vicino, vabbè, dove le possono mettere purtroppo, le metto, perché io mi avevo trovata la rete lì, però mi avevano detto che erano in regola, in 2 metri d'acqua c'era la rete, però la capitaneria mi ha detto che erano in regola perché quella non era zona balneare. Praticamente dopo la torretta fai la prima salita lì, cioè la più giù, appena inizia la salita lì sulla destra c'è quella spiaggettina sotto, però dice che erano in regola lì. Io ero andato a fare pesca su barca e sono entrato da lì, però mi hanno detto che erano in regola. Sì, ma è vero, c'è sempre la parte delinquente, sta la giustizia, e poco di va. Vabbè, comunque, vabbè, parametri li hanno sempre messo, specie l'estate, però si pescava lo stesso, perché andavo di notte, andavo dalle 8, già lo sai che prima delle 8 non puoi mettere le canne, dalle 8 di sera, a volte alle 8 di mattina, a volte me ne andavo anche a mezzanotte, a luna, dipende, però andavo sempre via soddisfatto, dico la verità, solo qualche volta che non mangiava, ma quasi sempre ho preso qualcosa. Sì, sì, sì, sì. È sempre stato un buon punto quello. Oggi come oggi devi avere fortuna, perché non vuoi tenuta. Io lì ci vado solo a seppie. Io lì ho preso anche un polpo, mi si è attaccato all'amo. Ho preso un polpo, non grande grande, sarà stato un chilo e mezzo, un chilo e mezzo, dai. Però intanto con la canna la giubiliata. Chissà come te, magari butto questo movimento. Capita anche con la polpara, con la cosa, a seppie che si attacca. Mi si attacca dalla cosa, la voce, la razza, piccolo. piccolina, infatti ci hanno buttato in acqua, si è fatta 20 cm di diametro, ce l'ho ributtata in acqua. Sicuramente si è agganciata, l'ancoretta si è agganciata quando stavo recuperando. Probabilmente, a volte capita, ma ti è mai capitato di agganciare il pesce di lato così con l'ancoretta? Infatti ti chiedi, ma quanto ha fatto di attaccarsi così a paragoda? Succede, magari recuperando c'è il pesce lì e lo prende, capito? A volte succede. Poi io neanche voglia, non mi va a neanche voglia di andare a pescare, ci credo, devo ancora farmi il permesso, però già me lo faccio. Perché non c'ho stampante, vado giù alla capitaneria adesso per un voto. Sì, cazzo, basta dirmelo, me lo mandi sul stampo, cazzo, bisogna andare alla capitaneria, io me l'ho stampato quando? 2-3 settimane fa, mi pare. Vabbè, c'ho il vecchio io, c'ho il vecchio... il vecchio permesso, dai, non l'avevo rinnovato. Ma no, a me mi era passata la voglia del surf casting pure. Da quando si pigliava più nude, compravi esche, ogni vulcano, un montone di napa, aveva agito, avevamo il logo, al legging, allo spinning. Ma lo sai perché, Lu? Perché noi prendiamo i verdi? Perché se no c'è gente che veniva in pescheria quando lavoravo ancora, io stavo in pescheria, veniva, si prendeva granchi, qualche cosa, di pesca così, qualche cannoricchio, e poi tornavano e mi facevano vedere le fotografie del pesce che prendeva a mani di fuori, ma Sara di Barobandi, di un chilo che era mezzo. Lo so. Sì, con le cozze, ma devi andare su scogliera, o si mette la cozza aperta, non chiusa, classico, la cozza aperta, capito, è lanciato così, però è una pesca più che altro di porte o di scogliera, dai. Sì, già. E mia madre mi raccontava che le prendevano con l'impasto fatto di pane ammollito nell'acqua col formaggio, pensa tu. Ah no, è la pastetta quella lì, il formaggio più puzzinoso e più attaccato, specialmente il mugine, le salpe, le prendi un bel così, con li metti l'ancoretta a fianco e poi li metti il coso con l'esca. Quando ci sono i mugini dello strappo le prendi anche con l'ancoretta oltre che prenderli con l'acqua. E ce n'era uno a Portotone, si guarda, che viene da Genova ogni anno, lui mi ha raccontato che noi abbiamo il pesce e non lo sappiamo pescare. È venuto, tutti quanti incantati erano, stavano aspettando la nave. E questo qui diceva che pesce era e dove l'aveva preso. Con l'ancoretta prendeva il pesce. Beh, metteva anche un pastone che qua non lo vedo, metteva questo pastone con l'amo e più l'ancoretta, e già questo l'ho preso alla coda, è un mugine, stava e mi abitato alla coda, era un mugine, ti diceva pure il punto dove l'aveva preso, io non capivo come facesse. Beh, fatto sta che mi ha abitato, ha detto che lui viene una volta al mese, viene un mese all'anno e si diverte, perché dice noi a Genova non ci abbiamo il mare bello come il vostro, quindi a me piace venire qua perché è più pulito, e compro la pastetta là e me la faccio qua, e poi per stare tutto il mese praticamente andiamo a cercare oro con metà del tetto e ci facciamo tutto il mese gratis. Visto. E usano anche il pane francese, che sarebbe di pancarria, la vigna, quello lì impastato con la stessa acqua addirittura, però con l'acqua di mare, oppure se sei in fiume con la stessa acqua si impasta. Oggi vendono anche quelle farine già pronte, io la pastetta la usavo solo quando andavo a Carpe, dai, Carpe, Tinche, la usavo per quella lì, però classica farina, ci mettevo la farina, il miele e basta, niente di particolare, farina, miele, guarda, piccavo tanti di carpe. Ora io c'ho la fotografia, mele, l'orata che ho preso lì, a cosa, se vuoi te la mando, l'orata che ho preso al di tutto un KVH dove stai dicendo tutto. Ma oggi mi pare che è più difficile. Boh, sta diventando molto, ma me l'ha raccontato anche un pescatore, questo qua era venuto lì a pescare appunto al Lido, con quelle canne da proprio da lancio, con quei mulinelli rottanti, tutta roba professionale, beh, ma è tu che crocco è Murendi, dice prima sì che si pescava qua, perché sono sempre venuti mai, ma adesso è un periodo morto. Ti raggio vicino, Murendi in retti, cosa vuoi bicarci, non per più nulla. Con la voce della verità, buonasera. Se ci mettono le reti in 2 metri d'acqua, cazzo, arabini ne lasciano tutte e non per più nulla. Cazzo, io mi stio mettendo la rete vicino. E lì però non si può mettere la rete vicino, lì se ti cassano non è come ha detto Luca, che se non è il posto di balneazione lì si fa nel bagno, quindi lì vicino non si può mettere la rete. Da giudizio di la giudizio buonendo di rete. E infatti in Chivino vanno paghi sa che non pensi più nulla. Ma varano il lasciato tutto. Io li ho visti da quella spiaggetta là già, secondo me quella rete arrivava fino alla torretta, però quando ho telefonato mi sono rimasto Mario, guarda, zitto, guarda, stavo facendo un pesca subacqueo, come sono entrato in 2 metri d'acqua c'era una rete lunghissima e dice si può fare perché lì non è una zona balneare. Grande che ragionamenti. E se c'è qualcuno che fa pesca subacqueo si piglia lì? Sì, ma infatti io qui ne ho buttati due o tre ceppi che erano la rete. E poi l'ho sorvolata e piano piano l'ho attraversata. Tu dovevi fare pesca miracolosa, ti facevi tutta la rete e non facevi manco fatica. Ma devi stare attento già, perché non è che la lasciano tutta la notte, ore e ore, ogni andato passa ne a controllare, non ti preoccupare. Però quando mi hai detto sì, agito blu, andava. Quello che dove la dovevi passare a rete. C'erano anche non ne buniani più in Chivi. E lì si pescava bene lo stesso, Lì ho visto, mi è passata una leccia, guarda. In 2 metri leva vero, di quella spiaggetta già. Mi è passata una leccia, ho cercato di chiamarla. Azzugna, sarà stata un paio di metri. Madonna, ma in riva, in riva. La leccia stella sta lì perché è predatrice. Ci mangia i pesci più piccoli. Ne ha preso una un signore una volta in riva così, con galleggiante. Ma manna Baromi, ce l'ha fatta 3 kg. Già ci sono, mala sorte. Già ci sono. Come il barracuda, il serra, e per quello molti si sono dati allo spinning anche, perché dalla scogliera ci sono le possibilità, o dal porto col popper. Oggi tentano, guarda, questi pesci enormi. Ma a me il barracuda non mi piace, io l'ho mangiato perché aiutavo questo signore che veniva al molo dove pescavo io, e lui aveva una pesca particolare faceva. Metteva le sardine invece che sotto sale, le metteva sotto polenta, perché dice che gli veniva meglio a staccare per comodità sua. Poi metteva questa specie di palla che galleggiava, con tipo un palamito faceva, con tanti anni. E lo sai che anche lui pigliava dei barracuda, di queste cose qua. Poi ne ho coppato uno che saltava dal coppo, mica il coppo mio, ma di chi si mani, saltava dal coppo. No, io l'ho preso a fucile, c'ha stato 1,20 m. 1,20 m sarà stato lì al terzo, agli scogli del terzo. Ma adesso pesca subacqueo non è fatto? No, io ho questi problemi di salute già, è un casotto. Io lì andavo alle Rocette Bianche e prendevo molte sippie, stavo in cuppia, c'è la quarta lì, però se riesce a scendere le prindie, andavano in cuppia, dove c'era una c'era anche l'altra, e lì da prendevo un bel sipi, anche qualche polpo, mi davo più su queste cose. Sì. No, già, è periodi, però. No, con la canna andavo lì, mi trovavo bene dove c'è la chiesetta. Scendevo lì dalla roccia fino al strapiombo, arrivavo e lanciavo lì un sarco dietro l'altro. Già ne perdevi dallo strapiombo, però già ne prendevi anche, caspita. Da bui, buca, pure chivi, reti, a naso, infatti pigliava a mia botte da sopra, andassine, e a chiedere un cotto passavano proprio sotto. Non è giusto andare sotto cotta, lì cazzano delle reti. Non sono giuste tante cose, in realtà, ma c'è sempre gente che fa le cose come si fa la legge di lui, che cosa vi va? Ma ricordi di Marano, ci sono le canne tutte belle pronte, ingrasciate, fatte, ancora non aggiungavate. Io mi rabbaglio, grazie, no, di ogni tanto mi viene da piangere. Sì, Natalia, basta che un giorno decidiamo, prendiamo e partiamo. È che io in certi posti non vi posso andare, che non posso camminare. Capito, là? Non sto andando per quello, non sto andando a fare un cavolo per quello, per il fatto che non posso camminare. In spiaggia, andiamo in spiaggia, ti porti una sedietta e ti posi, come faccio io. Io ho una sedietta col cuscino, di modo che sto bello al morbido, lo so pure manco manco. E mi siedo, metto le canne, metto gli starlight a una certa ora e via. E me ne sono abusato. Prima mi fumavo la sigaretta, adesso manco quello posso fare. Infatti, io direi di prendere anche un barbecue lì, di quelli piccoli, e ti fermo la ruscita da solo là. E in spiaggia se ti trovano un casino. Sì, sono, io guarda, quando andavo dalle 8 sino a mezzanotte, l'una, dai, ci stavo a volte, e andavo e prendevo. Prendevo razze, morboroni, di tutti di più, quando era giornata, quando non era giornata che diceva no, lo mangiava e basta, no, non ve la faccio, te li butti andare subito, anche se non mangiava da poi di un'ora, un'ora e mezza, te li butti già che andare. Lo so, comunque lì a Lido non c'è più nulla, anche ne stavamo discutendo con Bruno, poi l'avevamo visto noi, in chivi, poi la prendere i resti, cosa vuoi bigliare? Se ne avevano il resciato tutto. Basta andare al settimo pettine, ce l'hai di fusti, tra il sesto e il settimo c'è un bel posto, lì c'è l'autostrada, se sai lanciare bene, che nell'autostrada ti pigli, anche ora per belle. Sì, lo so. Però devi lanciare a 150 metri, devi avere il cane da lancio di quelle professional, Italcana, tutte quelle canne lì, capito? Ah, ce li ho due belle Amprose. No, io ho gli Olympus, però ho una Colmic, un Olympus, tutte con mulini di Shimano, l'8000, c'ho Shimano, 7000, insomma già ne ho di canne. Non abbiamo capito. Il settimo pettine è mio. Ah, tu il settimo. Ma chi sei, Tony? No. Tu hai cambiato di lungo pareggi. No. È mio. Anthony, tu sì? No. Però sei raffreddato. No. Avanti, Natali. A me pare che Torino vince. Ma è da fare tu gli fai. E a chi non l'ha giù conosciuto? L'ha giù conosciuto. Sembrava Torino raffreddato. E pure di Ciambaravolta, a noi non si butti. Ho capito il microfono. E così sei tu. Così vai bene, dai. Aspetta, con l'altro posto io ci vado bene. Luca, quindi cosa serve per fare per farmi quella... Col permesso, cosa ti serve? Io l'ho fatto tramite il sito già. C'ho il sito qua nel telefono, sono entrato da lì e ho compilato e me l'ho stampato. Ho capito, tu mi hai detto che me lo fai tu, cosa ti serve? Ehi, aspetta, mi sto entrando, i dati tuoi mi servono, aspetta. Gianni! Poi. L'ho stampato anch'io, c'ho tutto, sono 9-10 fogli. Vabbè. Faccio Luca, me lo fa anche a me, così almeno. Tutto compilato, l'ho portato giù. Natalie. Oh, yeah. Ma una volta che l'ho compilato, poi lo devi portare giù per forza. Ma giù dove? Ho portato adesso. Perdono. registrazione, non devi portare niente a Porto Autore. Ma c'è qui Fugibu. Esatto. Io non ci volevo un timbro, fa così loro. No, negativo. Allora io ce l'ho già. Anch'io ce l'ho già. E io invece non ce l'ho. Io faccio le fotocopie, se ne so. Non mi puoi dare la tua, no? Cioè, ognuno c'ha il suo numero, non è che... Io ce l'ho, è solo da rinnovare la mia. Ma io l'ho trovato attraverso il telefonino e l'ho scaricato direttamente. Sì, lo so. Anch'io facevo così quando c'avevo il computer. La tarina, la prima l'ho fatta io, il primo permesso l'ho fatto io. Ma io l'ho scaricato attraverso il telefonino, capito? Con un computer. Ma ci vuole la stampante, se più non ne ho stampante e cassettoni. Io ce l'ho. Io attraverso il telefonino mi faccio mandare via mail, così con la ricetta al dottore me ne stampo io, tutto io faccio. Io non le stampo, li porto al telefono, le faccio vedere e le sparo. Io me le stampo da casa, tutto a posto. E così mi carta, invece vai in farmacia col telefonino, te la spara, non c'è bisogno manco di stampare. Ehi, vabbè, ne ho fogli, ho preso il crisma pieno, i pacchi, sono ci faccio fogli. Che e io pure me le stampo qua le ricette. Tipografia, cosa li fai stampare, ui, me le faccio direttamente per la notte. E io posso la mattezza in gola da dove? E infatti, Antonio, la bella bella, e muovimi, ui. Niente, quindi una volta che io me l'ho stampato, il nome mio non ce lo devo compilare, praticamente la tabia. C'è tutto, aspetta che lo prendo a vedere, cosa non vedo? C'è tutto, c'è pure il numero di matricola. Visto che sei chiuso. Ma ci deve essere anche la mia email praticamente. Aspetta che lo cerco e vediamo un po'. Cazzo. Io ce l'ho sulla stampante. Aspetta, ma devo prenderla. Accesso alle applicazioni, prima pagina. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Natalie, io non bevo nulla oggi, né nome mio né niente, manco la mia email. Aspetta un attimo, no, c'è tutto, c'è, cosa no, allora non è stampato la tua autorizzazione. La prima pagina c'è scritto MIPAF, poi Ministero della Politica Agricola, Alimentare e Forestali, poi SPA, Sistema Italiano Pesca e Agricoltura, accesso a applicazioni, ce l'hai tu quello lì. Io sono andato dove tu hai detto me. C'era compilata la pagina 10-12, praticamente questa è tutta la pagina, ci sono i quadratini, devi mettere la X. Sistema Italiano della Pesca e Agricoltura, accesso ai servizi informatici. C'è tutto, nome, cognome, e codice fiscale, è tutto, beh. Cosa no? Ma lo devo scrivere io però. Ti fa le domande, tu lo compili e poi te lo stampi. No, io ho scaricato i fogli da compilare direttamente e basta. No, a me l'autorizzazione proprio mi ha stampato. Capito? Io sono su fatto della pesca di mare, capito? Comunque a me mi costa nulla di farlo a me, ma... No, aspetta che ci vado io, vediamo un po'. Luca, ci sei? Attenzione Luca Flipper. Ti sto rispondendo su WhatsApp. Ci vuole la password e la... come si chiama? E la... l'email. Ce l'hai tu? Certo che ce l'ho. Però mi ha chiesto anche lo speed e non ce l'ho lo speed. E non ho trovato quell'opzione per poter entrare con la password e l'email, capito? Ma sei andato Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, quello lì sei andato. Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Cosa ti dice? Community Login. Non mi ricordo più, non ci sono adesso sul quel sito, capito? Qua c'è scritto in grande grande MIPAF, poi Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Poi Leonardo c'è scritto Grim Aus e Geos. 12 fogli sono andati lì. A me mi dice di entrare subito e boh. Adesso cerco di leggere di nuovo, vediamo un po'. Vabbè, te lo fa fare la talità. Sarà sufficiente infatti collegarsi al sito web del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, aggiungere la selezione di ricatta, fare clic, richiesta della licenza, il quale potrà essere applicamente scaricata e potrà portato con sé durante l'attività della pesca mare. 2 febbraio 2022. E beh, non ti fa entrare lì. No, no, più cazzo. Vicenza, io penso che quanto costa tenerla, cazzo quanto costa, diciamo. A me ne scaduta 6 mesi, ma una cosa che farò, c'è da produttore se me la faccio fare. Vero, l'attività di pesca periodo festività 2023. Lascia vedere. Svolgimento, attrezzo, strascico, diritti, eccetera, eccetera. C'è tutto qua. Documenti. Deve andare comunicazione di esercizio all'attività di pesca sportiva e mare. Clicchi lì, esce, a vedere. Comunicazione di esercizio dell'attività di pesca sportiva in mare, Marcia, Bolì. No, devi andare in quel primo, devi schiacciare. Comunicazione di esercizio all'attività di pesca sportiva in mare. Scappa, ci sono. Poi, comunicazione, dal 2 maggio 2022, pesca sportiva in mare, dell'accesso all'applicazione consentito esclusivamente attraverso la carta nazionale del servizio GNS, SPID, o carta di identità elettronica. Sì, la carta di identità elettronica, quando la devo utilizzare? No, usa la carta sanitaria, che se no devi avere tutti i codici della carta d'identità elettronica. Schiaccia lì in quel sito HTTP, quello lì devi schiacciare. Mi sono sceso qui, c'è il manuale per l'accesso della procedura di autenticazione e di iscrizione del sito MASAF 1.05 MB, quello lì. In quel link vai, schiaccia quello che ti manda lì. Scaricare nuovamente le file, poi scaricare il nuovo accesso ai servizi, poi facciare vedere, scarica il nuovo, eccetera. Poi mi lascio tutta una trasformata. Allora. Manuale dell'esercizio, relazione. Però devi mettere il nome, cognome, mio, eccetera. Abbiamo c'è scritto la lì. Gianni. Eia. Ma tu ci sei entrato col telefonino? Cosa c'entra a fare se non lo posso scaricare? Cottoni, cosa c'entra a fare? No, l'ho detto a Luca, ma lo sta facendo lui. Non c'è problema. Io ho detto che va, c'è il nome nostro, quando lo scarichiamo, quella da blu. A me quando gliel'avevo fatta a lui, me l'ha fatto scaricare dal mio computer e gliel'ho fatto a lui, il primo che ha avuto lui, gliel'ho fatto io, capito? E me l'ha fatto fare senza mille difficoltà, adesso non lo so come sia. Io non so più dove andare. Devi accedere all'area riservata. Dove la trovo l'area riservata? Sopra a destra. Sopra tutti a destra, dove c'è la bandiera italiana. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Dove fa? Dove devo cliccare? Dove c'è la lente o dove c'è le tre linee orizzontali? Le tre linee orizzontali. Pesca, catalogo, no, non è qua. Allora, come fare per utenti, cittadini, ripristino, aziende, cittadini, iscrizione, registrazione, assistenza utenti, accesso all'area riservata. Lì devi schiacciare. Io ho schiacciato quei tre orizzontali e vi dà ministero, poi notizie, politiche europee, politiche nazionali, controlli, qualità, ricerca, PNRR. E io via. Torniamo qui. Non c'è vedere. C'è la bandiera italiana, naviga. Poi andiamo qui, c'è la lente. Niente, ci sono le tre linee. E mi dai nuovo quello lì mi dà. Non sto prendendo te nuovo. Sono su Google, ci sono. Ecco. Mi scrivo come scaricare per essere di padella fresca. Gianni, guarda, te l'ho mandato come fare. Lui, anche il mio è così. Sì, te l'ho detto, una cazzata al fatto. Gianni, ti ho mandato tutto come fare, entrare e farlo, poi te lo stampo io qua. Però devi farlo tu, perché ti devi registrare tu. Non posso io registrarmi, capito, a tuo nome. Perché ci vuole l'email pure, mi sembra, così è. E allora, è quello, non è che puoi entrare e farlo a tutti, capito, perché ti chiedono i tuoi dati, la password e tutto. Aspetta un attimo, vediamo un po' se riesco a raggirarlo questo. Fatti mandare i dati da di Gianni. Perché Natali poi ti chiede lo speed, io entro con lo speed, capito? Anche con la carta sanitaria può entrare. Se non ha lo speed, gli mette i dati della carta sanitaria. Aspetta, provo a fare un altro account, vediamo un po'. Dovrei riuscirci, aspetta. E ti fai dare i dati di Gianni e metti l'account di Gianni. Infatti sto facendo così, se no non mi fa entrare perché vuole il mio, se ho capito, io ce l'ho già stampato, mi scade a dicembre. E un burraggio. Oh signore. Io sono già pronto, nome, cognome, se appena Gianni mi rimanda. Anche il codice fiscale fatti mandare, mica ti chiede anche quello di Gianni. Sono già dentro la pagina, sto aspettando che mi mandi i dati Gianni. Sto aspettando che mi mandi i dati. Sì, questo è un... programmatori, avete finito? Aspetta, lo sto facendo. No, che pesce. È a Tonino, invece aveva finito. Fatto avete? Lo stai facendo tu a Torino. No, io se non ho né dati né niente a Torino, come faccio a farglielo? Qui ci vuole la carta sua per entrare. Ci vuole o la carta sanitaria oppure se c'ha lo speed, capito? Io già ce l'ho adesso il lettore delle carte, ma non c'ho il coso, non c'ho la stampante, bisogna che me la compri, buonanotte. Ma fa una stampantina in bianco e nero, me. Certo. Piccolina, di quelle che costano poco, a Roma con cui stampati la roba che ti siete. Ma tanto la stampante non è che ne abbi molto, per qualche cazzata così. Questa qua si può fare anche benissimo alla capitaneria, adesso ci sta provando Luca a farmelo. Se con i dati che gli ho dato glielo fa fare, se no vado in capitaneria, non lo faccio fare in capitaneria, che problema c'è? Perché lì hanno l'app sbloccata, vanno direttamente sulla pagina e te la stampano, capito? Poi se sei già registrato basta scrivere rinnova solo e te la rinnova immediatamente. E te la stampa se sei già registrato. Guarda, io sono registrato da quando l'ho fatta a te la prima che ho fatto a te, te lo ricordi? E mi sono registrato da quell'anno lì e ce li ho avuti tutti gli anni. Adesso questa che c'è ultimamente mi è scaduta a dicembre 2022 e non me l'hanno potuta rinnovare perché non hanno rinnovato la data, non avevano rinnovato la data nel sito, capito? E quindi dovevano aspettare che rinnovassero, se no l'avrei già fatta. Perché io quando lavoravo li portavo le pedane dell'acqua, li lasciavo tutti i dati e io mentre scaricavo l'acqua loro me la facevano, quando finivo me l'avevano già preparata. Sì, perché loro hanno l'applicazione direttamente, no? Adesso dal sito, basta che lui, se quando ha messo i dati tuoi di accesso, clicca rinnova e te la rinnova direttamente, ti la stampa e ti esce già rinnovato, senza mettere altro niente. Vabbè, tanto adesso non è più come prima era solo per fare una cernita per vedere quanti pescatori c'erano, che tipi di pesca facevano e via. Adesso ti mettono la multa se ti trovano senza, cioè l'ho letto io. E lo so che ti mettono la multa, io ce l'ho. Agitavi, si è rinnovata, se non me la rinnoveggio, ma ce l'ho la nuova. Ai, ciao Giuseppe, e allora a voltare pure i pescatori, va, perché ma fa parte sempre della vostra, dei vostri compiti, diciamo, scappagato. E vabbè, comunque io adesso, siccome non ci ho stampati, Giuseppe, l'ho detto a Luca se me lo stampa, però le sta trovando molti problemi, ho dovuto mandare tutti quanti i miei dati eccetera eccetera, adesso non so se gliel'ha fatta stampare. Di che cosa? Gli ho mandato la vecchia, gli ho mandato la vecchia che ci avevo, no? Su WhatsApp, però mi ha detto che gli servivano i dati, quindi ho dovuto mandare email eccetera eccetera, e io ma non so se gliela fa fare, boh, vediamo un po'. Io comunque sono già registrato, perché tutti gli anni l'ho avuta, già sono già 4-5 anni che la faccio, quindi l'ultima mi è scaduta a dicembre, poi non me l'avevano rinnovata e capitale idea, perché mi hanno detto che nel sito non avevano messo la data nuova e quindi risultava sempre scadenza a dicembre e è inutile che la rinnovavano, che stavano aspettando che cambiassero la data. E ma infatti faccio così, se ci sono difficoltà scendo un po' dottore, se che poi non andrò domani a pescare, ma comunque meglio sempre averla, che se capita un giorno che qualche amico mi chiama e mi dice io andiamo a pescare, ce l'ho pronta e via, la roba da pesca è tutta pronta, mi ho rinnovato tutte le carni, tutte ingrassate, fatti i mulinelli, è pronta per andare a pescare e non è mai stata usata ancora, nel senso di quest'anno. Vabbè, 2 anni fa l'ho usata l'ultima volta, sono andato una volta 2 anni fa. Sì, quando vai in camper giri, quindi puoi usare diversi posti. A dicembre 2023 mi scade a me. Cosa, Giuseppe? Oh, non si può pescare da nessuna parte. Anche una volta, lo sai, sono andato al Ghero, era in primavera. Siamo andati io e un amico di Alghero, che tra l'altro è anche CB, e siamo andati a pescare lì all'Alvaretto. E praticamente cosa è successo? Che abbiamo visto la forestale, io ho pescato un'orata e un sarago. E come li ho visti subito, ce li ho messi dentro una busta e li ho messi dentro una borsa. E si avvicinano e ci fanno, ma voi siete di Alghero? Ho detto, lui sì, io sono di Sassa, dice come mai sta pescando, ce l'ha la licenza, qua non si può pescare se non c'è la licenza fatta dal comune, deve essere un residente qua. E gli ho detto vabbè, ma sono con un amico, no, no, non c'entra nulla, che cosa ha pescato? E gli ho detto no, niente per il momento. Dice vabbè, è stato fortunato, perché se avesse pescato avrebbe dovuto fare un verbale più lungo di lì, la forestale questa qua. E mi hanno fatto piegare le canne e andare via. Beh, fatto sta che secondo me gli ha chiamati qualcuno che c'era lì, geloso, capito? E praticamente me l'ho scappata così, Giuseppe. Poi ho chiamato la capitaneria di porto di Alghero e mi hanno detto l'hanno voluto bene, perché se no sarebbe stato a fare il verbale, sequestrarli anche tutte le canne, perché gli hanno detto cose giuste, bisogna fare il permesso al comune, bisogna essere residenti per pescare lì. No, lì Alghero bisogna pescare, solo i residenti possono pescare, come se noi non fossimo sardi, capito? È nuova, anche a me mi suona nuova, sono caduto dal cielo quando me l'hanno detto. Per fortuna io ho avuto l'istinto di nascondere il pesce, perché se no c'avevo l'acqua con secchio da lavare intera, no, di quei secchi uso, di quelli per lavare intera, ci metto l'acqua e ci metto il pesce dentro. Li ho subito messi dentro la sacca, cazzo, manco male, se si muove, si muovia, l'ero buttito. Beh, ma chi ne sapeva? Questa di cui mi ha detto, ma che è strano, cioè, io sono sempre venuto, non mi hanno mai detto nulla, pensavo che potessero pescare tutti. Già, leggi WhatsApp. Boh, Natali, riprendi tu un attimino, che mi sta sentando sempre. Ehi, Natali. Buonasera. Pasqua, ma perché hai rinnovato quella tesserino? Ehi, a me mi scade a dicembre del 2023. A usare non lo sappia io. Certo, a fammelo controllo, vedete che non mi faria. È perché sennò guarda che ti mettono la multa, se ti trovano senza quello. Quindi devi scendere in capitaneria e rinnovarlo. bello farlo dal sito. In effetti è così. Senta che andiamo bene. Ma da quando è questa cosa qua? E da un bel... Cioè che per il momento non c'era nulla da rinnovare. Io avevo scritto questa cosa qua, ma mi hanno risposto che per il momento non c'era nulla. Cos'è con questo nuovo governo che c'è dubbio? Ma io me l'ho rinnovata e mi scade nel 2023, praticamente, a dicembre del 2023. Ogni anno vuole rinnovare. Ciao pure! Ciao Gianni! No, stavo chiedendo a Natalino per questa cosa qua. Stavo chiedendo. Cioè dice che vuole rinnovata. Certo. A me mi scadeva dicembre 2022 e devo rinnovarla nel 2023. Ogni anno vuole fatto il rinnovo. Già che io cioè, l'avevo chiesto e mi hanno detto, dice che non ce n'era bisogno di rinnovarla, che andava bene quella che avevo. Ma chi l'aveva? Nel sito avevo mandato il coso io, un'email avevo mandato e mi hanno risposto che no, non ce n'era bisogno allora. E adesso però ci vuole. Se non riesci a parlare tu bisogna andare in capitaneria. Tanto mi ci dovrò scendere anche io. No, e adesso... Adesso guardo quando mi scade e così me la rinnovo. Provo a entrare nel sito a vedere e me la rinnovo. Intanto mi abbozzutona non si può più andare. A Plattalona non si può più pescare perché buttano le reti. Non so più nemmeno se rifarmi o no. Mi sembra che non mi posso più. Intanto, ma che bisogna andare io. La seconda lì senza andarvi. Mi pare da che mi è entrato lo gufide invece che abbia andato. Anzi, dal 2019 sono senza andarci. No, io dal 2021. Certo, è una cosa strana però. E adesso provo a vedere, guardo a vedere quando mi scade. E vedo se rinnovarla o no. Magari rinnovarla conviene perché capita un amico, dice andiamo a pescare, ce l'hai pronta e vai, capito? Tanto l'attrezzatura io ce l'ho tutta pronta, tutta nuova, ho gli ami già fatti, tutto quanto, sul sughero, non faccio altro che attaccarli perché la notte già lo sa fare gli ami, è un casino. Io me li preparo già. No, io insomma l'ho un po' abbandonata. Devo rifarmi un po' della canna, già è pronta, però mi devo rifare tutto quanto il resto. Ciambamero il contenitore, il coso, e tutto quanto. Io l'unica cosa che non comprare è comprarmi la borsa nuova, perché quella lì si è rotta il manico, e ci raggio di fudice. Io buono mi raggio di comprarmi lì, saburo. Anzi, più di tutti chi sa mi devo comprare, innovarmi un po' di ami, piombi, e tutto il resto. Cosa? Ami, piombi, borsa e canto penne mi devo rinnovare. Avanti, chi stava chiamando? Chi è che mi ha chiamato? Vabbè, comunque, niente da fare, dai. È un bel casino. Adesso mi vado alla capitania, l'anno scorso anno sono andato e non c'avevano cartucce a colori, me l'hanno fatta in bianco e nero. Dice vabbè, già va bene lo stesso, non c'è problema. Ma con io ho finito la cartuccia, il bianco e nero ho finito. Me la devo girare. E adesso ce li trovo. Ma che alternata che fai? Il microfono. Come mai te lo fa? Io guarda, la radio ce l'ho sopra, il microfono è sotto la radio. Pensa un poco, e non me ne vado a me. Ma che vai che cosa di... cosa di massa no che non sta funzionando. Guarda, adesso non lo fa più, lo fa adesso. E secondo dove lo metti? È il microfono, ormai l'ho appurato che è quello, non me ne ha fatti nulla, tanto la telecamera si sente solo quando mollo e basta. Certo. No, si sentiva quando parlavi, si sentiva. Ecco cosa è. Io ce l'ho sotto alla radio. ma sta funzionando benissimo, senza alternata, senza nulla. E mai non so come perché non faccio un posto, lo devo mettere qua a fianco a me e non lo fa più. Non mi ha appurato del microfono, probabilmente fa rientro, non lo so, provate a fare un cavo di massa dal microfono all'apparato, niente da fare, non si riesce a cavarne più, dirà, vabbè, ci sarà bisogno di una ferrite magari. Sicuramente, devo attaccare un capo del microfono. Ma comunque quando parlo non le fa, perché io mi sono ascoltato. Lo fa solo quando mollo. No, adesso non si sente, ma poco fa quando stavi parlando non si sentiva parecchio. Ma è una cosa assurda. E infatti. Natalia, ancora vici? Sì, sto mangiando. Da te che mangi. Giuseppe, ci sei? Riprenditela. Sì, che praticamente se lo affianco alla radio fa alternanza, invece se me lo metto sul ginocchio oppure se lo metto su una sedia non lo fa più. E allora, avvicinata della radio, infatti fa del rientro. Ho provato a mettere anche un cavo dall'apparecchio al microfono, niente da fare. Sempre lo fa, quindi ora me lo so, lo so, è così. Ma lo fa, a me me lo stava facendo solo quando mollavo, quando parlavo lo faceva. Sì, adesso perché ce l'ho, io sono sdraiato, me l'ho messo sul letto, capito? Mi sto rilassando un po'. Avevo gente a pranzo oggi e un po' mi sono assillato, dai. E tu Giuseppe non sei uscito oggi col camper, no? E io ho detto non sei uscito venerdì, non ti dà, lo so, e ho visto un paio di camper stamattina uscendo, ma ho detto boh, il tempo è un po' incerto, solo che per dire dove vicino a casa c'era ombroso, ma la parte di Portamona c'era il sole, vedi, e via Portottore magari c'era il sole, perché da quella parte lì ho visto che era tutto soleggiato, invece vicino a casa era uggioso il tempo, sembrava che dovesse piovere da un momento all'altro, infatti a te ho detto io buvi a fare tutto perché se no ci frega la pioggia. E io Giuseppe, avanti Luca, ci sei? Luca non risponde. Tore, avanti. Sì, cazzo, se ne è andato lo segnale di Rai 3, boh. Chi c'è che non ripigliava? Boh, boh. E cosa c'era di importante a Rete? Perché, per esempio, adesso mi dovevo guardare il telegiornale della Sardegna. E invece pari di Rusignari. Guarda, Videolina, canale 10. E no, tu mi dice lo stesso. Sì, infatti. Ma se si può ripigliare si ripiglia, a me non mi si è ripigliato, oggi va per la durita, la vittura. E magari che temporale che per vicino, eh? No, sicuramente ci deve essere spento qualche ripetitore. Fa fare così. E chi lo sa, la radio buona è o bassa? No, è buona, radio 5 è perfetta. E il segnale 9. Ma sì, no, segnale. Ma sì, no. Ma non lo so. Aspetta, siamo vicini. Come faccio ad arrivare 9 così in massa? Andiamo a 9. Prova a vedere se ho staccato il commutatore. Guarda a vedere. No, 9.20, sì. E allora il commutatore che ti sta dando problemi. No, lo metto per il rumore, lo metto. Mi toglie tutto gli spifferi. Da filtro tipo? Sì, il filtro c'ho. Ci metto il filtro e mi toglie tutto quanto. Se no mi intendo il rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Me con lo squelch non ce la fa regolare il rumore. Mi sa la vecchiaia, Ciao Fra. Ti sudore il vecchio ormai. Qui c'è la vecchiaia, adore. Vabbè, cazzo, non si può far nulla, no. Siamo noi a sbattere con rumori. Cazzo, non si può attaccare nulla. Allora, ciao Natali, buonasera. Sempre rumore, vai, sudore. Cosa vi posso fare io? Allora, Natale. Sì, stiamo cenando qua. Ma guarda, no, io stavolta non c'ero niente. Ho buttato a pranzo, dici? No, no, stanotte niente, una bella pigiama e poi a letto. Hai mangiato poco a pranzo? Ma veramente ero di matrimonio, capito? Quindi, ieri, io giro che ho pieni, sono rientrato. E va a tutti, un casino. E anche io, fra poco, c'ero un matrimonio. Si sposa mia nipote. Ma quello che c'era lui era nulla, capito? Sono vicino a nulla. E io sono vicino pure a Gusara per matrimonio. E vabbè, e ci vuoi fare. Andare. Vai d'ore. È così. È così. Uno che già stato, un gozio già stato, non del nuovo. Sì, sì, non andiamo bene. Come ti sto ascoltando molto basso di radio, dove? Aspetta un attimino qua. Andare, vai Natalia. Sto cenando, ti sto ascoltando, dai. Allora, cena, cena con calma, non c'è problema. Vai già, l'ascolto basso al cuore di radio. E anche io non ascolto molto forte, solitamente l'ascoltavo molto più forte. E beh, Brigida! Meno me, arrivi due. E beh, ragazzo, come va? Sì, sciolto, sciolto, sciolto, sciolto. Oggi stavo ascoltando su internet uno che fa la guardia giurata, già nella di Danny Moghi di Vauri, infatti tutti gli stavano dicendo Massimo prendono 1.200, lui dice che prende, che per 1.200 non si muove, ma manco da casa, prende 1.800 euro al mese, facendo anche straordinario e tutto, però arriva a 1.800 euro. Sì, è altro che devi fare, però arrivi a 1.800 euro di straordinari, come duri devi fare. Lui ha detto che lui fa 12 ore, dai, 12-13 ore, però ha detto che lui per 1.200 euro non ci sarebbe manco andato. Non è vero, sono tutte balle, sono tutte balle che una guardia armata prende massimo massimo facendo 12 ore, 1.200-1.300. Infatti, se non è che ci abbiamo qualche contratto in continente diverso, forse il contratto nazionale, noi ci avete ancora quello regionale, così è. Ah, ma fuori stai dicendo, allora sì, se fuori sì, riprendevo anche io 1.800. Sì, sì, fuori, non qua. Ah, allora sì, sì, allora sì, è vero. Cappaga. Loro ci hanno contratto nazionale, così è. Sì, sì. E invece voi ci avete regionale come contratto? Quello, quello proprio a terra a terra, già. No, non hanno mai rinnovato questo contratto, lo dovevano rinnovare e farvi entrare in quello nazionale. Vabbù, vabbè, cosa ci può fare? Ce n'era freddo ieri notte? Ieri notte? Sì, se qua vivi da là, sto facendo la giornata oggi. Ah, adesso? Pensavo che hai fatto la notte. Sono disciurca, non c'è soli. Quindi stai abbronzando. Per carità. E l'ombrellone è aperto, là. Sì, ce l'ho aperto l'ombrellone. Ma almeno una cabina, ma che cosa dovete avere, cazzo, che non mai uno deve stare qui a Ciassoli. Sì, ma è solo di la domenica, perché durante la settimana siamo sempre di nuovo. Cappa, cappa, vabbè. Allora già si può sopportare, là. Adesso ti vedrà dei turiste. Sì, col periodo male ho parlato. Dai. La sento già, faccio una doccia, mangio e mi ci curico. Ciao Manuel, stammi bene, alla prossima. Buonasera a tutti, anche se sono entrato così di prepotenza, scusate, ma non ho sentito nessuno. Franco! Giuseppe, ci sei? Franco! Ehi, ciao Manuel, buonasera. Andiamo, io fra un po' chiudo, bene. Guarda a vedere un po' di TV, qualche film. Ah, oh, che TV, ti mangi da buio. No, andiamo a vedere qualche film. Ma adesso ci devo scendere il cane. Adesso mi preparo e lo porto giù. Che è già ora, che ore sono? 8 meno un quarto e adesso chiudo, va. Ci sentiamo ragazzi, statemi bene tutti, dai, una continuazione di serata. Io vado a portare a Tyson giù. Passa qua Gianni, passa qua che ti do il mio. E no, che Tyson è Maru. non accetta, se è, se è femmina già va bene, ma se è maschio. Sì, va bene, maschio, Scusami che ti dica. Va bene così. Ma mi accetta solo barboncini, i barboncini, i cuccioletti, quei cagnolini che sono affettuosi, là, ma se sono maschi, se no non li muovi in là. Sì, il mio è un po' grandetto, non è molto, è appena appena più alto del tuo, appena però, vabbè. Ma il mio è tirioso, e chi si fa? Vai, mira, un zaccurto, ve lo do io, a chi su ganizzo io, me. Che cane hai, Tom? È un incrocio tra dalmata e un altro cane da caccia, normalmente un metesigiama. Ed è bianco e nero, è un po' grande. Pare appena appena un cavallo, per esempio ce l'hai un dalmata grande. Scusa Edo. Ma è tuo quello lì o quello di tua figlia? Sì, mia figlia è. Siccome a Londra no, non è il buon vedere. Allora mi è toccato regamere, me ne ha rigato a Genova. Sono salito a Genova e me ne ha giovarato. Anzi, erano in due con la lupa e li avevo scesi qua a Sassari. Li avevo scesi nel 2019. Quindi la lupa l'ho data e di Alghero. E lui me l'ho dovuto tenere. Vabbè. Quando si tratta di lavoro è così. Vabbè, ma ritorna qua oppure resta lì? No, il cane ce l'ho io e lei adesso arriva a fine mese, sta tre giorni, poi riparte e veniva a fine agosto. Ogni tanto viene a trovarmi, dai. Interessante è quello, di c'è un cane quando la vedi. Ah, lei già la vede, fermo vedente, è un telefono, pare che non la veglia. Sta bene con voi, Sì, ormai si è affezionato a me, si è affezionato. Già va bene, così vi fa compagnia. Sì, ogni tanto me ne conta Rurito, me ne conta. Ehi, vabbè, quello è male di tutti, anche te se lo fa. Ma te se l'ho messo una coperta, di modo che se va sul letto non sporca il coso, il copriletto. Sì, me l'ha fatta beffa, questi due copriletti, uno era nuovo nuovo, e me l'ha fatta beffa, tutto pieno di bello. No, lui rispetta il suo posto, se ne va nella sua cuccetta, perché... Però guai se anche tu non si cocca a lungo giù, mamma mia. Pensa un po'. No, questo è tutto strano. A voi, ogni di mi tocca passare a aspirapolvere, fare un vero. Vabbè, quello anch'io adesso perché lo stavano cambiando, adesso comunque è finita il periodo del pelo. Adesso in quest'ultima settimana non ne ho più trovato. Tutti i giorni passo l'aspirapolvere, in tutte le camere e per forza. Mi dico che sempre bisogno, è vero. Sì, ha detto che è vero, bello. Non riesco a capire il perché. L'ho detto al veterinario, mi ha detto, dice, quando si tiene in casa, lui lo perde. E può dipendere anche dal mangime che gli dai, cosa gli dai, crocchette da mangiare? Crocchette, un pochettino di carne che gli metto dal barattolo. No, io gli do roba fatta da me, gli faccio la carne, la pasta, gli do... E poi un pugno di crocchette, ma di quelle buone, di quelle da trainer. E a chi? Certo, tu prendi un medio di naso, ti prendi male crocchette, ogni tanto per il giambo, perché quando vedo che comincia a non mangiarle, allora gliele cambio. E mi gusta ancora di più. E che crocchette gli dai? Sono crocchette che... Che usano, che mi ha detto anche il medico, dice gli dia queste crocchette qua, e sono, molte volte prendo sacchi da 20 kg, prendo, e ti prendo un montone di denaro, ti prendo. Io le pago 50 euro le mie. da 12 kg, 50 euro. Prima stavo prendendo quella che era da 15 kg, stavo prendendo, poi sono abbassata a 12 kg, venivano 49,90. Ma poi ho trovato questi più bassi, erano sempre 15 kg. Allora ho cominciato a cambiare piano piano, vedevo che non le mangiavo e cambiavo. Ecco cos'è. Quando vedo che cominciano a mangiarle, allora gliele cambio. Ma bisogna sempre vedere cosa c'è all'interno, perché ci sono cani che hanno praticamente il mio, se gli dai carne di pollo oppure altra roba che gli può far male, lo fa subito a diarrea. No, adesso questo, a lui gli sto dando carne di pollo, gli sto dando ogni tanto giambo, gli do quella di mangia e non me ne mangia. Allora gli sto dando questa di pollo, ma non gli fa nulla, sta andando tranquillo. Ci vedo che andare a diarrea per il giambo. Vabbè, ci sentiamo, dai, io stavo andando e poi mi sono trattenuto. Ci sentiamo, buona serata a tutti. Ok, ciao già, ci risentiamo, ciao. Natali, io ti saluto se ci sei. Ciao Natalino, stammi bene. E anche agli altri, saluto. E agli ascoltoni. Ciao Salvatore, ciao. Ciao Gianni, anche a te. Ciao Natali, ciao. Ciao anche a Giuseppe, là, se l'ascolto. Saluto anche a Giuseppe. Tornato, dai. Ci sentiamo, buona serata. Franco, ci sei.